pregare per il mondo, per tutti i violenti, pregare contro tutti gli imbrogli, per i prepotenti, rogar, rogar, porre. Per tutte le città del mondo, per tutti i continenti, pregare per chi mette sempre gli affari prima di tutto, per l'aria e l'acqua pulita. Questa Italia ferita, per gli alberi e per i campi, contro i veleni nel vento e nella nostra anima, per quello che non sappiamo. Tutti noi che non siamo mai sinceri fino in fondo, pregare per tutti gli adulti che hanno smesso di sognare e di digerire. Che hanno un dispiacere, pregare per tutti i ragazzi, per tutti i ragazzi, contro le nostre paure, per tutti i dolori. Qualcuno gli vada incontro.